sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 12 di febbraio, 16.30, primi 55 secondi, siamo in diretta dalla studi di Radio 24 di Milano, versione di Oscar, @radio24.it per mandare opinioni, richieste di trasmissioni e di ospiti. Allora, oggi stiamo su una notizia uscita da poche ore che fa il punto, ve lo dico, ve lo anticipo prima di presentarvi gli ospiti per sollecitarvi eventualmente a dare la vostra opinione all'800240024 e gli sms 349-238-6666. Stamane l'Istat ha fatto il punto degli indicatori demografici dell'Italia nel 2014. Ecco, la notizia da cui partiremo e quella su cui vi chiedo un'opinione franca è questa: nel 2014 l'Italia ha, ohimè, battuto il record negativo di tutta la sua storia unitaria in termini di numero di nascite. Abbiamo avuto 509.000 nascite nel 2014, 5.000 in meno rispetto al 2013, ed è il livello minimo dell'unità d'Italia, minimo. Chiarissima quindi la vasta congerie di temi che sono collegati a un paese che anno dopo anno conferma questo suo primato negativo, questo primato negativo di avere un complesso di fattori, diteci voi quali nella vostra opinione, che però congiurano insieme per ottenere questo effetto di ostilità alla fecondità. Ovviamente il fattore economico, la perdita di reddito, ovviamente un sistema fiscale e del welfare, quindi sulle entrate, l'assenza del quoziente familiare, le detrazioni basse per figlio, e sulle uscite, sul welfare, la componente di spesa rivolta alla famiglia sul totale della spesa sociale, che è significativamente più bassa rispetto a quanto invece non ne indirizziamo alle pensioni. Poi altri fattori, una politica di sostegno al lavoro femminile bassa, insoddisfacente, quindi un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Vi ricordo che tutte le statistiche comparate ci dicono che sono i paesi in cui i sistemi del lavoro sono più favorevoli a innalzare il tasso di partecipazione femminile, quelli in cui contemporaneamente, malgrado ciò che pensano molti maschi italiani, si ha un tasso di fecondità più elevato. Questi e tanti altri fattori spiegano perché, tanto per essere ancora più precisi, il numero medio di figli per donna nel nostro paese 1,39 come nel 2013. Io ricordo a tutti che il cosiddetto, in termine tecnico, tasso di rimpiazzo, cioè quello che serve a tenere in equilibrio le diverse classi di popolazione rispetto a quelli che muoiono, è di 2,1, quello necessario, di numero medio di figli per donna. Noi siamo a 1,39, tanto è vero che i morti in Italia rispetto a 509.000 nascite sono stati 597.000. Quindi un paese che complessivamente conferma l'innalzamento medio dell'età degli italiani, e che naturalmente conferma anche, per fortuna, il fatto che l'attesa di vita media continua a crescere. La speranza di vita alla nascita oggi in Italia è giunta a 80,2 anni per gli uomini, 84,9 anni per le donne, ma contemporaneamente un paese che, così procedendo negli anni, si esporrà inevitabilmente a crescenti problemi di produttività, poiché la componente delle classi al lavoro che diminuiscono di numero perché diminuisce il totale della popolazione, sono una componente fondamentale della produttività. 1, 2, un grande problema di equilibrio intergenerazionale per la sostenibilità, per esempio, delle pensioni, visto che, ricordo a tutti, siamo in un paese in cui il sistema certo non è più delle pensioni collegato, sia pure con una gradazione lunga nel tempo, agli ultimi retribuzioni, quindi non è più retributivo ma è diventato contributivo, ma resta a ripartizione, cioè le pensioni in essere vengono pagate con i contributi di chi nel frattempo lavora, e voi capite che se diventano sempre meno perché è minore il loro numero sul totale della popolazione che invecchia e che quindi gonfia le centurie che sono sempre più negli anni della pensione, e beh, ci sarà un problema crescente che si dica. Allora la questione diventa: come si fa ad affrontare questa, che è una questione culturale e insieme economica, fondamentale nella interpretazione del presente, del passato, visto che è un fenomeno che va avanti da un bel po'. Noi siamo scesi sotto il piazzo, il tasso di rimpiazzo, cioè il numero medio di figli per donna, di 2,1 che vi dicevo prima. Abbiamo iniziato a scenderci a metà degli anni 70 e la discesa continua imperterrita ad andare avanti, quindi è un fattore che oramai è di medio periodo. Però tutte queste questioni si risolvono in alcune domande, vi prego di chiamarci per dirvi la vostra esperienza. Pensate che sia il fattore economico o quello del welfare o quello del fisco, quale di questi o tutti questi insieme, ma quale è il più importante per portare un paese come l'Italia ad avere oramai un'età media al parto di 31,5 anni, anche questo ci dice l'Istat nel 2014, capite che è un'età comunque significativa ed elevata. Ecco, nel frattempo che aspettiamo le vostre telefonate e i vostri sms, iniziamo a parlare di questi dati con i nostri ospiti. Comincerei innanzitutto con Giampiero Dalla Zuanna. Giampiero Dalla Zuanna è uno dei più grandi demografi italiani, insegna demografia ed è al contempo anche oggi un politico e senatore del PD. Buon pomeriggio, professor Dalla Zuanna. Buon pomeriggio a Oscar e a tutti i radioascoltatori. Allora, immagino che ovviamente lei non sia sorpreso da questa fotografia dell'Istat, ma posso chiedere al demografo di aggiungere qualche particolare in più sugli aspetti di maggior preoccupazione, se questa tendenza, che oramai è di medio-lungo periodo, non viene invertita sul nostro paese? Che cosa avviene in realtà? Allora, devo dire che Oscar Giannino ha fatto un'eccellente panoramica della situazione demografica italiana, dimenticando però, perché non doveva parlare di questo, di parlare del fattore migratorio. Effettivamente, per rimpinguare le classi di giovani in Italia ci sono due modi: o aumentare il numero delle nascite oppure continuare con un alto numero di immigrazioni. È quello che è accaduto fondamentalmente negli ultimi 20 anni, no? Quando abbiamo un saldo migratorio medio di 300.000 persone l'anno negli ultimi 15 anni, e questo ha in qualche modo parato il colpo del forte declino del numero di. Ma al di là di questo, diciamo solo che nel 2014 l'Istat ci dice che il saldo migratorio netto è sceso dalla cifra che lei ha citato negli anni precedenti a più 142.000 unità. Certo, certo, difatti con la crisi e anche le migrazioni, il rubinetto, diciamo, delle migrazioni si è parzialmente almeno voluto, specialmente le migrazioni per lavoro. Allora, si parlava prima di fattori culturali e voglio dire una parola su questo. Praticamente l'Italia condivide con altri paesi, in particolare la Spagna, la Grecia, ma anche i paesi dell'estremo oriente, un fattore potente per la bassa natalità, che è la forte incidenza della famiglia, il forte ruolo della famiglia. E questo sembra un po' paradossale, ma in realtà si capisce se si considera il fatto che proprio dove la famiglia conta molto nel determinare il destino dei giovani, sente più fortemente la responsabilità, e quindi ci pensa, le coppie ci pensano 2, 3, 4 volte prima di avere il secondo o il terzo figlio. Cioè, diciamo, si farebbero più figli se si avesse una impostazione più condivisa per il quale li si manda ben prima fuori da casa. Ma per esempio, guardi, negli Stati Uniti, dove abbiamo 2 figli per donna e anche 1,6, 1,7 bianca, Lì, anche se non ci sono tante politiche favorevoli alla famiglia, però una società organizzata in modo tale per cui dopo i 20 anni i giovani con i loro genitori si vedono solo a Natale al giorno del ringraziamento, e la responsabilità dei figli verso i loro figli è molto più lieve rispetto al caso. Se parliamo poi di paesi come il Nord Europa e come la Francia, là invece si parla del quello che diceva lei prima, cioè gli interventi forti dello Stato a favore delle famiglie con figli. Anche se ci sono anche dei paradossi in Europa, per esempio la Germania da parecchi anni dà molti soldi alle famiglie con figli, malgrado questo la fecondità è uguale più o meno all'Italia. Perché pare fra i tedeschi è molto alta la quota di donne senza figli. Quindi ecco, effettivamente i fattori culturali contano molto, certo. Certo, è un paradosso per molti in ascolto, lo vedo dalla reazione, l'idea forte famiglia uguale meno figli, però effettivamente pensateci voi a casa prima di dire non è vero, è tutta colpa di altro, perché questo è un fattore che ha un suo rilievo. Detto questo, però, ripeto, se questa tendenza continua e in realtà avendo raggiunto una quota di residenti italiani di nazionalità estera che è ancora intorno all'8-9%, ma crea già tanti problemi agli occhi di milioni di italiani ed è un tema divisivo politico, e quindi essendo diciamo un po' delicato credere di poter fare il saldo positivo a botte di 300.000 immigrati l'anno, se questa curva invece dei residenti italiani non si tira su, cosa succede, professore? Cosa succede? Allora, poiché fortunatamente noi abbiamo uno dei tassi di mortalità più bassi, no? L'ha citato prima lei, 80 anni di vita media, eccetera, senza dubbio la demografia su questo è implacabile, ci sarà un invecchiamento ulteriore della popolazione e quindi ci possono essere problemi molto gravi che noi rischiamo di condividere con la Germania, col Giappone, con altri paesi che hanno questo tipo di demografia. Dei paesi in declino anche innanzitutto per la demografia. Sì, però il declino non c'è un automatismo fra declino economico e calo delle nascite, no? Come ho certo. Citato prima al caso anche tedesco. Cioè, il problema è che bisogna a quel punto abituarsi all'idea che bisogna lavorare e andare in pensione ad età parecchio più elevate di quelle che già oggi in Italia creano con la riforma Fornero delle reazioni terrificanti. No, ma difatti quello che adesso parlo anche un po', diciamo, insomma, noi dobbiamo, è stato anche detto e speriamo di farlo molto rapidamente, anche rispetto alla riforma Fornero, mettere degli elementi importanti di flessibilità, per esempio dei meccanismi, ne abbiamo parlato anche altre volte, forse anche in questa trasmissione, dei meccanismi che permettono di essere un po' in pensione, un po' lavorare, no? O altre cose di questo genere che permettono effettivamente di lavorare anche ad età avanzate, senza che questo porti un peso insopportabile per le persone. Tutte cose che dobbiamo fare, però io credo che ci sia spazio in Italia per un incremento della natalità. Lo dimostra per esempio il fatto, anche i dati che l'Istat presentava oggi, che in regioni come il Trentino Alto Adige, anche il Trentino, non solo l'Alto Adige, che sono tedeschi, ma il Trentino e la Val d'Aosta, dove gli interventi a favore delle famiglie con figli sono più importanti, e la fecondità è più alta di 0,3-0,4 punti, che è molto, che è molto, sì, certo. Che è molto. Per cui in realtà l'Italia ha spazi molto importanti di recupero della fecondità, però bisogna mettere in atto delle azioni per cui le famiglie con figli si sentano accolte da due punti di vista. La compatibilità del lavoro femminile con i figli, senza dubbio, l'ha detto anche lei prima, no? Questa è la prima assicurazione rispetto alla povertà dei bambini, perché lavorino entrambi i genitori, tra l'altro. E la seconda cosa è effettivamente pareggiare un po' il sistema fiscale, tenendo conto appunto che i bambini con più fratelli sono penalizzati da molti punti di vista. Qualcosa si sta cominciando a fare anche con la professore qui adesso chiedo al senatore, sì, quanto conta, certo, avere un welfare diciamo parecchio più squilibrato in termini di punti di PIL a favore delle pensioni piuttosto che a favore della famiglia, della fecondità, e il fatto che poi alla fine i pensionati votano e i giovani e i piccoli no? Ma secondo me conta meno di quello che si può pensare, anche perché in Italia una fetta di soldi che arrivano ai pensionati che poi vengono girati anche alle famiglie più giovani, sia in termini di soldi sia in termini di tempo utilizzato per la cura dei figli. Sapete che in Italia un terzo dei bambini in età 0-3 sono accuditi dai nonni, no? E altre cose di questo tipo. Quindi secondo me, per esempio, se si facesse una maggiore investimento sulle famiglie, secondo me anche i pensionati non sarebbero scontenti, proprio perché vedrebbero che queste cose vanno anche ai loro figli e ai loro nipoti. Allora iniziamo a sentire rapidamente un'ascoltatrice, Loredana da Roma. Prego, Loredana. Buonasera. Buonasera, allora c'è un combinato disposto omicidiale qui da noi, perché il fatto che le donne non lavorino, il fatto che i servizi sociali siano diminuiti in questi ultimi 30 anni rispetto alla famiglia, comporta che se una mamma che non lavora perché ha un figlio o due chiede spazio in un asilo nido, non glielo danno perché non lavora, ma se questa poveretta non può collocare i bambini come fa a lavorare? Ed è una. Dopodiché se io ho per esempio una legge interessante come quella sui congedi parentali, direi di essere prenderla ai nonni, perché ci sono molti nonni che lavorano ancora, che hanno un reddito alto e si possono permettere una riduzione del reddito del 50% per accudire i nipoti, lavorando, e lasciano liberi i genitori di lavorare e non accedere al congedo parentale che gli trancia la retribuzione del 70%. Allora Loredana, la fermo qua perché ci ha dato due spunti che giro subito al senatore e demografo. Il primo è: sono davvero diminuiti i servizi alle famiglie da 30 anni fa? Perché su questo io avrei da dire. E seconda cosa, l'estendere il congedo parentale ai nonni, che ne dice dalla Zuan? Beh, allora, i servizi non sono più che tanto diminuiti. Quello che è diminuito, effettivamente, se andiamo a vedere i dati, è i trasferimenti, in particolare in termini di assegni, esatto, familiari. Esatto. Questo è quello che è accaduto. Sui servizi dipende in termini un po' di potere d'acquisto zone e di reddito. Esatto. Un problema che c'è in Italia, secondo me, che si è puntato moltissimo sugli asili nido, che sono una cosa bellissima, ma che sono molto costosi, sia perché per le persone che mangiano i bambini, sia per la collettività, e fra l'altro con una sperequazione, perché chi entra ha parecchi soldi dallo Stato e chi non ci entra non riceve nulla. Non riceve nulla, esattamente. Non è molto giusto, insomma. Non è giusto per niente, infatti per questo io direi che c'è bisogno di estendere i voucher estesi a tutti con criteri equitativi, naturalmente in proporzione al reddito, eccetera, eccetera, piuttosto che la lotteria, come sapete, poi cioè, ci sono problemi di ISEE, accertare il reddito per avere i punti e così via, e poi ci si finisce sempre per dividere, però chi sta fuori a quel punto non vede nulla. Allora io intanto ringrazio Giampiero Dalla Zuanna per il contributo che ci ha dato, torniamo tra 60 secondi con un altro ospite e le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci qui, stiamo commentando questi dati della fotografia demografica data dall'Istat dell'Italia 2014, il record negativo di nati nel 2013, solo 509.000 nascite, morti 597.000. Con il demografo e il senatore del PD Dalla Zuanna abbiamo fatto un po' di intersecazione dei diversi fattori che concorrono a questo e delle possibili conseguenze se continuiamo su questo andazzo. Sentiamo ancora un po' di vostre telefonate e poi andiamo al secondo ospite. Cominciamo con Fabio che ci chiama da Torino. Prego Fabio. Buonasera. Buonasera. Io chiamavo per agganciarmi anche al discorso che ha fatto la signora che ha parlato prima. Sì. Il fatto dei nonni. Io ho 32 anni e quindi siamo tra i giovani. E il problema è comunque che tante persone come me non abitano nel posto dove ci sono i nonni disponibili. Io e la mia compagna abbiamo i nonni a distanza, di conseguenza il bambino ne so qualcosa da qualche parte bisogna metterlo, e quando nell'asilo nido i posti massimi arriva, ovviamente se uno passa la graduatoria sono 14, 10, 15, 20 quando va bene, si capisce che non c'è posto, nonostante siano poche le nascite i posti sono proprio pochi, e se uno va nel privato va a spendere cifre che per un reddito medio basso sono incomponibili con l'affitto o il mutuo, eccetera eccetera. Questa è la mara verità. Enrico da Verona, prego Enrico, come la pensi? Buonasera, è un piacere parlare. Niente, io a differenza di molti altri non ho, per fortuna, adesso tocco tutto quello che c'è da toccare, dei grossi problemi economici, un lavoro, io e mia moglie lavoriamo, però forse anche per questo, perché siamo sempre tesi, siamo sempre con i nostri orari, non vogliamo altre responsabilità. Potrebbe sembrare molto cinico come discorso, però abbiamo mai questo aspetto, diciamo, chiamiamolo culturale, degli stili di vita, come abbiamo visto, conta. Quindi voi non ne avete dei figli? No, non ne abbiamo, non abbiamo mai neanche cercato, neanche cerchiamo adesso che ormai non sono 50 anni. Però però come me, ne parlavo appunto anche con degli amici, delle coppie sposate no, che convivono di una certa età, la cosa è abbastanza simile. Cioè. Sì, sì. Ma posso fare una domanda, Enrico? Adesso, visto che non ci sono i fattori economici, non sono quelli per vostra fortuna, ripensamenti niente, no? No, allora io ci penso ogni tanto, magari morirò vecchio solo, un po' triste, però al momento non ne ho. Una volta, vabbè, c'era servito il fidanzamento, matrimonio, figli. Spesso per fortuna, anche dal punto di vista delle dal punto di vista culturale, è molto distinto. Certamente. Non ne ho. Grazie Enrico, sentiamo grazie, Franco. Franco da Vicenza, vabbè. Prego Franco. Allora, giù la maschera, l'ha detto il ascoltatore precedente. Perché alla fine è questo il problema più grosso, non è un problema economico, perché allora i nostri nonni dovevano fare zero figli, visto che la condizione economica era molto peggiore. Non si vuole più rinunciare a niente. 40 anni pensare di cominciare a fare un figlio è impossibile, ne fai uno e poco più. Infatti io sono l'esempio, il mio padre si è sposato a 38 anni, mi ha avuto a 41 e sono figlio unico. Io mi sono sposato a 25 e di figli ne ho 3. E se dovevo fare i calcoli con la calcolatrice non ne facevo niente. Allora Franco, tu poni un problema che io vedo anche nella mia, non vuol dire nulla, ma nella mia piccola esperienza di vita, nel senso che se paragono, io ho genitori anziani, sono entrambi ancora vivi, la generazione che ha fatto la guerra non da bambina ma avendo già insomma l'età della gioventù, effettivamente anch'io in un quartiere operaio sono cresciuto in un modo che oggi quasi nessun immigrato accetterebbe, cioè noi avevamo una stufa che era quella dei fuochi a carbone, che era sia stufa che cucina, e mezzo litro di carbone dovunque, non lo dico per attirare nessun tipo di comprensione o solidarietà, era la condizione in cui si viveva negli anni 60 nel nostro paese in un quartiere operaio, oggi nessuno accetterebbe quelle condizioni come umane. Il problema è che la percezione dei livelli minimi evolve nel tempo ed è correlata anche alla crescita del reddito medio e mediano, e quindi questo aspetto è un aspetto che da una parte si spiega, dall'altra resta vero. È ovvio che la generazione di mio padre e mia madre si è esposta a dei sacrifici che oggi apparirebbero impensabili, è anche vero che però abbiamo un problema di reddito medio e mediano bassissimo nel nostro paese, con metà dell'Italia che poi c'è la metà di quello che c'è nel resto d'Italia, quindi è un problema da, ohimè, contestualizzare nel tempo di oggi, anche se resta vero quello che hai detto sulle generazioni precedenti. Allora adesso andiamo un secondo con Andrea Toma, che è un ricercatore del Censis, a ricollegarci ai temi che proprio l'ultimo rapporto del Censis a ottobre scorso aveva posto al centro della sua riflessione annuale, e questo aspetto era esattamente al centro. Grazie di essere con noi, ad Andrea Toma. Buonasera a tutti. Allora, riflettiamo un secondo realisticamente, per riorientare un secondo le politiche pubbliche a favore della famiglia e della fecondità, sapendo che abbiamo dei vincoli di bilancio, che abbiamo una spesa pubblica già al 51% del PIL, eccetera, realisticamente, nel vostro rapporto, qual era la direzione indicata? Naturalmente quello di operare in funzione anche di quelli che sono, diciamo, degli scenari che sono già presenti, cioè in funzione della famiglia, quelli che sono poi gli standard che sono stati raggiunti da altri paesi, e quindi innalzare per quanto sia l'impegno nei confronti, fare quindi una sorta anche di riconfigurazione quella che è la spesa a favore della famiglia, in modo tale da creare anche, come dire, uno spazio, uno spicchio di futuro per chi in questo momento ha ancora. E quanto conta questo fattore culturale che abbiamo visto molto condiviso dalle nostre telefonate? Sul fattore culturale secondo me conta, poi bisogna capire, ci sono degli aspetti culturali come quello che si diceva prima, cioè una sorta di egoismo che in qualche modo è nato per mantenere gli stili di vita di un certo livello, eccetera, e questo è vero per una parte della popolazione. Il tempo anche. Negli ultimi anni, anche il tempo a disposizione, sì. Questa era un'altra cosa molto importante che... È ovvio che per mio padre e mia madre l'idea di avere tanto tempo libero da prioritizzare rispetto ai figli era impensabile, una specie di enormità inaccettabile. Però se noi, allora, naturalmente se guardiamo la situazione fotografata oggi dall'Istat e la trasponiamo nel futuro, nel lungo periodo, ci troviamo di fronte a una situazione insostenibile, esatto, per tutta una serie di fattori. Esatto. Veramente se non riusciamo, in questo forse anche il professor Della Zanna ci può aiutare se è ancora in linea, però a pensare all'Italia del 2030, 2035, 2040, facciamo uno sforzo enorme. Perché abbiamo una condizione, tra l'altro, di quasi di unicità nel mondo. Lei ha citato il caso della Germania, il caso del Giappone. il Giappone è nelle condizioni simili a quelle dell'Italia, ma l'ha fatto anche con un certo anticipo. Esatto. Cioè è stato noi oramai abbiamo un processo per cui nei prossimi anni iniziamo quasi a battere tutti, direi. E io da questo punto di vista, siccome il tempo è tiranno, devo ringraziare Andrea Toma che ci lascia quest'ultima fotografia. Ci pensi la politica, ma pensiamoci tutti. Continuate con la 24, appuntamento come a domani.